allungo, la schiena sale. Un livido ritorna nitido e mi fa pensare, tremare. Un soffio di vento che gelido arriva, resto senza saliva. Il mio cervello neanche capiva, intanto quel gelo mi assaliva. Fumo saliva e non basta, non calma, non scalda. Fantasmi in testa, aver paura non salva. Mentre cerco di capire cosa mi turba, penso agli amici che ho perso e la cosa assurda è che c'è chi pensa che col tempo ricordo lo spengo. Questo quanto un po' mi urta. Ehi, promesse non mantenute, talenti inespressi per tante scuse. Scrivo le pare su carta, schifo l'infame che parla. Vivo su un filo e più tiro e rischio che si strappa. In pappa mi salva soltanto sto suono. Tu devi imparare a fare prima di insegnare, prima di saper rappare devi essere un uomo. Uomo, non so se sai che non c'hai il trono. Siamo seri, la penna mi scalda dopo che un soffio ha congelato i miei pensieri. E tutto ciò che sento vola via come il soffio del vento. Gelido, diventi isterico se mi accontenti. Il rap è un condimento di concetti e suoni messi a tempo. Semino rancore verso chi pensa non abbia senso, perché senza lei non dormo. Peggio che guardarsi un horror nella sera, canna accesa per prendere sonno. E chi comanda il mondo ha dei piani surreali sulle quali noi umani non andremo contro. Ci faranno contenti controllandoci le menti, e senza che ce ne rendiamo conto ci tolgono gli indumenti. Siamo stati chiari, esco senza chiavi e documenti. Non serve che chiami, basta un ascolto per farci contenti. Non conto sui perdenti, rincontro volti sorridenti. E non solo, forse anch'io lo sono. Odio chi mi fa i commenti dietro. Sia chiaro, per te fiato non lo spreco. Spero sia giusto congelare il mio pensiero. Apro la finestra, un soffio gelido ma carezza la testa. Mi ricorda delle mie gesta, della tempesta. Degli anni passati, soldi buttati, gli amici drogati. Fra, ma la mia vita è questa, questa, quindi io continuo. 300 all'ora come il rettilineo, me dominio, dillo a tuo cugino. Ho rimorso già dal mattino, ho già morso e mordo come un mastino. Nota sul tuo taccuino, che non piango mai perché piangere non risolve i miei guai. Perché la gente non pensa se tu piangerai, perché la gente se ne frega. Non serve che condividi in bacheca, a me fotte sega. Più dopato d'un maratoneta, spiro fumo finché l'animo non quieta. Non mi salvano dei soldi, figurati uno che prega. Potrei morire in ogni istante, bro. Per questo vivo ogni giorno come fosse l'ultimo. Ogni notte mi assale più di un pensiero mentale. Penso com'ero, come sono, non sono serio, sono superficiale. Provo a superare, super giù, non mi dimentico, più mi assento. Non mento, il tradimento è un evento tradizionale. Non è la mia tradizione, non ho mai tradito né la tipa, né l'amico, né il nemico. Ma fatico, ho capito, ne sarei uscito. Non punto il dito, si accetta e si sopravvive. La scelta aspetta chi vive, aspetta, ho tradito le aspettative. Aspetto, rifletto nel letto, un brivido mi toccherà. Freddo al petto, arriva di getto, quasi mi congelerà. Congelo se alzo ogni singolo pelo, quando alza bomba lo stereo per sentire un'altra volta la voce di Cla. Mi tremo, lo temo quel treno passato in anticipo già in passato. L'autista non lo giustifico, zio, ma il fato è arrivato. Almeno poteva essere meno infame, l'ho imparato. Queste trame mi hanno segnato, non ci risveglieremo. Qua a Genova al nord, qua io l'ho sempre detto, qua c'è una diffidenza assurda. Sono delle maschere, altro che quelle, il soffio, il giro, la maschera della gente, quelle...